Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e undici minuti per la precisione, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Siamo in diretta dagli studi Radio 24 a Roma, ma ci occuperemo oggi di vari temi e vi dico subito che la giornata è abbastanza fitta di appuntamenti, di notizie, perché da un lato ci occuperemo di Grecia, visto l'accordo ottenuto dall'Eurogruppo, oggi c'è l'Ecofin, ma di fatto è un, da questo punto di vista è un appuntamento formale. La seconda tranche di aiuti alla Grecia sarà di 10 miliardi di euro e gli effetti si sono già avuti per quello che riguarda i titoli di Stato greci, perché il tasso dei BTP greci a 10 anni è sceso per la prima volta da novembre sotto il 7%. Ci occupiamo di Grecia ma anche di Italia, perché oggi c'è un dato non bello sulla produzione industriale e sul fatturato. Il fatturato a marzo è calato del 3,6% rispetto al marzo del 2015. È il calo più forte dal 2013. Giù anche gli ordinativi industriali, meno 3,3%. Anche qui il calo è in contrazione, tra l'altro però è un calo soprattutto sul mese precedente, il 3,3%, perché se si va a vedere gli ordinativi rispetto a un anno prima c'è una leggerissima crescita dello 0,1%. Però dicevo, e perché si è avuto questo dato? Soprattutto per l'elemento che aveva più trainato la crescita del fatturato e degli ordinativi, il comparto auto, perché l'auto ha registrato il primo calo dal 2013 del 6,5%. Questo nel giorno in cui sono stati diffusi anche i dati sull'andamento del nostro export ad aprile, più 4% rispetto a marzo, ma meno 3,6% rispetto a un anno fa. E anche le importazioni calano però bruscamente rispetto a un anno fa del 13%. C'è una debolezza, come stiamo raccontando ormai da mesi, su tutti gli ex, o meglio i BRICS, ma ex economie trainanti, Brasile, Russia, India e Cina. La Russia ha fatto meno 9%, la Cina meno 6%, i paesi OPEC, dove si fa sentire ormai da mesi il basso prezzo del petrolio, meno 16%. Il dato positivo più significativo del nostro export ad aprile ha riguardato gli Stati Uniti, più 11,7%. Ne parleremo anche perché domani vi sarà l'assemblea pubblica di Confindustria, in cui prenderà la parola per la prima volta il neopresidente Boccia. Si sta tenendo adesso la parte privata dell'assemblea, ci sono già alcune dichiarazioni che le agenzie stanno battendo, ma ne parleremo anche perché domani nella sede del Sole 24 Ore a Milano si terrà l'appuntamento più importante dell'anno, come ogni anno, nel settore del lusso, che è uno degli elementi importanti del nostro export, il Luxury Summit, e cercheremo di capire come si stiano orientando le nostre aziende, che spesso hanno riportato in casa quando avessero nel passato portato fuori le produzioni, le hanno riportate in casa, perché proprio sul lusso si è scoperto, tra virgolette, che non esiste una delocalizzazione tout court, al massimo esiste un'internazionalizzazione delle imprese, ma che riguarda a questo punto più la rete commerciale, di distribuzione, di marketing, che la produzione in sé. E da questo punto di vista cercheremo di capire anche che cosa, quali siano le prospettive in mercati come quello russo, cinese e brasiliano, che erano grandi acquirenti anche del nostro lusso. Poi parleremo di Unicredit, il cambio al vertice arrivato ieri in serata, e le prospettive sul titolo e soprattutto sul gruppo bancario. Infine, visto che si terrà a fine maggio l'appuntamento più importante a livello mondiale per il mondo delle ferrovie, quindi delle rotaie, si chiama World Congress on Railway Research. L'Italia è il paese ospitante quest'anno, parteciperanno per la prima volta anche le ferrovie russe e giapponesi, e ospitanti sono chiaramente le nostre ferrovie dello Stato. Ne parleremo con l'amministratore delegato Mazzoncini per capire quale sia il futuro anche della ricerca nelle rotaie, ma anche gli investimenti in Italia. Oggi varie dichiarazioni del ministro Del Rio proprio sul piano industriale delle ferrovie dello Stato e anche sulla tra virgolette fusione con ANAS. Ricordo che il governo è intenzionato a collocare sul mercato il 40% circa delle ferrovie dello Stato, che hanno chiuso l'anno scorso con un utile di tutto rispetto vicino al mezzo miliardo di euro, 467 milioni di euro per la precisione. 349-238-6666 come sempre il numero per WhatsApp e SMS. Rapidamente, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Beh, visto che parlavamo di Grecia e dell'accordo, tra un attimo avremo anche il commento di 100 secondi e poi il collegamento con Adriana Ceretelli, vi vorrei far ascoltare invece cosa ha detto oggi il nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan in merito al debito italiano, dopo aver commentato come un successo importante e incoraggiante proprio l'accordo sulla Grecia, una trattativa lunga ma un successo importante sia per la Grecia che per l'Unione Europea. Il debito italiano, ha detto Padoan, si è stabilizzato e comincerà a scendere molto rapidamente. Abbiamo una diversa valutazione con la Commissione Europea sull'impatto e l'esito delle nostre privatizzazioni. Rispetto a qualche mese fa, l'inflazione in Italia si è rivelata molto più bassa di quella attesa e quindi la crescita nominale è molto più bassa della crescita nominale, non reale, che determina la dinamica del debito. Noi continuiamo a prevedere per il 2016 un inizio di discesa del debito e questo dipende da una diversa valutazione che noi facciamo in tema di privatizzazioni rispetto a quello delle istituzioni internazionali. Quindi io continuo a dire che intanto, e questo è riconosciuto da tutti, il debito si è stabilizzato, quindi ha smesso di crescere e non potrà stare fermo per molto tempo e comincerà a scendere molto rapidamente. Allora, andiamo con il primo tema per quello che riguarda i dati di ordinativi fatturati. Oggi andiamo subito sui temi, le notizie in breve praticamente vengono tutte assorbite dai temi che abbiamo scelto come approfondimento. Una nota di servizio, chi scrive al 349-238-6666, sono in riunione con il cliente almeno fino alle 19, bacio, guardi che ha sbagliato numero, banalmente, non siamo noi l'oggetto del suo bacio, almeno. Allora, dicevo, dato non bello sul ordinativi e fatturato, ma soprattutto non bello perché va in parallelo con il dato sull'export, che vede scendere le nostre esportazioni nei paesi extraeuropei del 3,6%. C'è un aumento rispetto a marzo, ma noi guardiamo sempre il tendenziale l'anno su anno. E qui, come dicevo, guardando le destinazioni, a parte il più quasi 12%, in un anno di export aprile su aprile verso gli Stati Uniti, tutto il resto dei grossi mercati extraeuropei di sbocco al segno meno 9% Russia, meno 16% OPEC, meno 6% Cina, meno 2% il Giappone. E allora siamo in collegamento con chi domani avrà un ruolo importante nell'appuntamento che si svolge domani e anche venerdì al Sole 24 Ore in via Monterosa 91, l'ottava edizione del Luxury Summit. Saranno ospiti tra l'altro Edoardo Cavilla, Remo Ruffini, che è il ministro delegato di Moncler, Sabina Belli di Pomellato, Enrico Rosselli, il ministro delegato della Martina, Diego Della Valle, presidente del ministro delegato di Tod's, e Andrea Illi, che oltre che essere presidente del gruppo che porta il suo nome, ma è anche presidente della Fondazione Alta Gamma, cioè l'associazione che riunisce le aziende e i marchi italiani di eccellenza nei vari settori, quindi non solo nel settore del cibo, del food, ma anche del vitivinicolo, dell'arredamento, della moda. Illi, buonasera innanzitutto. Buonasera. Dunque, voi domani parlerete delle prospettive del settore del lusso. Come e che scelte o che ragionamenti si possono fare in un settore chiave, dicevo prima, del nostro Made in Italy, che tra l'altro ha pochissimo delocalizzato e quando l'ha fatto ha riportato in casa le produzioni perché ci si è accorti che la qualità della manifattura italiana era impagabile e anche le operazioni di acquisizioni estere di marchi di lusso italiano non hanno mai comportato una chiusura, diciamo, dell'impianto, per essere brutali, ma anzi un rafforzamento. Come riorienterete le vostre strategie di esportazione alla luce di quello che ormai è un dato acquisito, cioè il rallentamento pesante di economie che prima trainavano anche la crescita del nostro export anche nel settore del lusso? Bene, allora premesso che l'alto di gamma rallenta meno del mercato complessivo, perché possiamo dire di essere piatti in questo periodo e di avere prospettive di crescita, diciamo, comunque tra il 0 e il 2% da qui a fine anno, quindi anche di una probabilità di recupero, ma l'opportunità sul medio-lungo periodo è ancora più grande, nel senso che la potenzialità dell'Italia non è stata ancora espressa pienamente. Vi è infatti una domanda crescente a livello globale che deriva dalla più diciamo tumultuoso periodo di crescita delle middle class in tutti i paesi emergenti e per quello che riguarda l'Italia vi è una, diciamo, quello che cito spesso essere un vantaggio competitivo endogeno che abbiamo, che deriva di essere il paese dove il paese, la patria della bellezza, la bellezza della natura e della cultura che continuano a ispirare la nostra manifattura. Bisognerà per cogliere l'opportunità aumentare la quota di mercato. Noi abbiamo adesso circa una quota di mercato del 10% in un mercato che viene stimato dell'ordine del trilione, quindi diamo un contributo superiore già con l'industria culturale creativa al del 5% del PIL italiano, che è rilevante perché i settori all'interno di questo mercato del luxury sono circa 2/3 dell'industria, dei settori industriali, quindi è un ruolo quello dell'alto di gamma che è praticamente di ambasciatore culturale del Made in Italy nel mondo e che fa da traino anche le esportazioni per gli altri, diciamo, prodotti, per gli altri segmenti. Per aumentare la quota di mercato, cosa che penso si possa crescere e così ci siamo impegnati a cercare di fare anche con il governo, di portare la quota al 15%, bisogna però cogliere delle sfide che sono quattro, di cui faccio una brevissima anticipazione. La prima sfida, è il cambiamento del consumatore, in particolare questo nuovo millennial che sembra influenzare in maniera importante gli stili di consumo anche delle generazioni precedenti. In secondo luogo il cambiamento dei modelli l'innovazione dei modelli di retail, perché vi è direi una quasi saturazione ormai dei punti vendita monoprodotto e monomarca nel mondo e quindi bisogna inventarsi delle cose nuove, altrimenti si va solo a fare cannibalizzazione dei punti vendita esistenti, e vi sono anche formati nuovi da poter inventare con più alto contenuto di servizio. Terzo punto è quello del modo di fare industria, nel senso che oggi con l'industria 4.0, le tecnologie esponenziali, l'Internet of Things, bisogna cambiare completamente i paradigmi anche del luxury, che era basato sul paradigma del, se vogliamo, manifattura manuale. Oggi non si può più parlare di manifattura manuale, ma di una manifattura comunque ad alto utilizzo di tecnologie. E last but not least, questo rinnovamento, se vogliamo, che non mi preoccupa per niente, perché questo, diciamo, mercato del luxury si è già rinnovato talmente tante volte, anzi direi che è in fase di rinnovamento continuo e quindi anche questa volta si rinnoverà, avrà bisogno anche di un rinnovamento di quel, chiamiamolo, modello di capitalismo italiano, che è tipicamente di un'industria familiare, a conduzione familiare, tendenzialmente sottocapitalizzata e con un basso utilizzo, diciamo, della finanza, e queste cose avranno bisogno di cambiare anche queste. Allora, dei quattro punti che lei ha toccato, sarebbe bello approfondire tutti. Domani ascolteremo anche le parole del neo presidente Boccia di Confindustria proprio sull'ultimo punto che lei toccava, e cioè il rapporto tra modelli di impresa, finanziarizzazione dell'impresa, capitalizzazione dell'impresa e, aggiungo io, anche dimensioni dell'impresa, perché non sfugge a nessuno che se tu vuoi stare su certi mercati, non dico tu, ma qualcuno nella tua filiera debba avere le dimensioni per portarti lì. Poi tu puoi essere un fornitore, un subfornitore, può essere a parte finale o a parte a valle o a parte a monte, però qualcuno di grosso, inutile farsi illusioni, che abbia la forza anche finanziaria oltre che commerciale, ce lo devi avere. D'accordissimo sull'industria 4.0, ne parleremo altre volte. Quello che va sotto il nome di Internet of Things sembra una cosa così alta e un po' difficile. In realtà vuol dire semplicemente che internet si applica a qualunque cosa. Pensate cosa sta succedendo nel mondo dell'abbigliamento con l'applicazione delle tecnologie anche ai tessuti, ma lo cito solo come esempio. Vorrei concentrarmi, è giustissimo anche il ragionamento sui millennials e quindi sulla nuova capacità di creare valore aggiunto nelle cose attraverso l'uso della rete. Ormai ci sono ragazzi che vengono pagati perché si è scoperto che hanno una tale capacità di orientare le opinioni anche d'acquisto sulla rete che le aziende li reclutano, come lei sa meglio di me, Illy. Però volevo concentrarmi sul secondo punto, i modelli di retail, cioè i modelli di distribuzione, perché sappiamo che anche nell'alto di gamma, meno che in altre parti, meno che in altre fasce merceologiche, però noi abbiamo un problema, nel senso che il problema che abbiamo avuto su mercati enormi come quello cinese, come quello indiano, ma anche brasiliano, era sostanzialmente che per esempio i francesi ci fanno molta concorrenza proprio sulla capacità di avere strutture retail, strutture commerciali. Cosa intende dire lei con un superamento, diciamo, del modello classico del negozio monomarca? Sì, i francesi sono complementari agli italiani, che sono più quelli del prodotto, della creatività, della manifattura. I francesi sono più strutturati sul commercio al dettaglio, sia con i negozi monomarca, peraltro finanziati da gruppi che sono molto ben, diciamo, dotati di capitale. Ecco, quello che intendo è che l'onda, diciamo, molto lunga, di oltre 20 anni di sviluppo del modello di retail monomarca e monoprodotto, che è stato fattore critico di successo nel mondo del luxury, adesso sembra essere arrivato alla maturità, quindi alla saturazione, nel senso che aprire ulteriori punti vendita non sembra più essere dare un contributo così significativo all'aumento dei fatturati e soprattutto della marginalità, perché quando il numero di punti vendita diventa eccessivo comincia a calare il fatturato, diciamo, per metro quadrato, che è l'indicatore più importante. E questo sarà ulteriormente rinforzato dall'influenza dei millennial, che sono meno orientati ai hard luxury o a prodotti di prezzo così elevato. Quindi bisogna mettere in prospettiva di avere margini più bassi da ogni negozio preesistente, e che quindi renderà ancora più difficile sostenere i costi fissi che si comportano. E quindi bisognerà trovare dei modelli distributivi che abbiano un contenuto di servizio, un'esperienzialità, una narrazione diversa da quella che sono i negozi monomarca. Faccio sempre questo esempio banale, che se voglio comprarmi un blazer non posso fare 6 o 7 negozi delle mie marche preferite per scegliere il blazer preferito. Preferisco andare in un punto dove vendita, dove trovo tutti i blazer di tutte le marche, e scegliere in un unico punto vendita quello migliore. Questo per dare un'idea del contenuto di servizio. Ma un altro aspetto che trovo ancora più rilevante è che il nuovo paradigma, diciamo, del luxury, a mio modo di vedere, è trasversale ai vari settori. E quindi si va a scegliere il meglio, che non è necessariamente il più caro, in ognuna dei prodotti e servizi che si sceglie nella propria vita. E quindi viene tutto messo in un unico, se vogliamo, lifestyle, o un unico, diciamo, stile di vita, in cui i luoghi che frequenti, le persone che vedi, che cosa mangi, dove mangi, come ti vesti, come arredi la tua casa, come ti sposti nella mobilità, fanno tutto parte di un unico stile. E quindi tanto vale cercare di organizzare una value proposition trasversale a tutti i settori, creando dunque delle sinergie intersettoriali di cui l'Italia potrebbe essere campione assoluto. Che è un po' quello che stanno tentando di fare alcuni appuntamenti, penso al Salone del Mobile a Milano, dove si integra però anche, sì, come dicono gli esperti, contamina la moda, ma anche il vino, per cui o il Vinitaly, che acquisisce anche elementi di carattere modale, cioè questa integrazione tra vari comparti del lusso. Visto che poi avremo ospite, mi sono legato alle Ferrovie dello Stato, gli chiederò anche se a maggior ragione nei servizi di maggior valore aggiunto, quindi Freccia Rossa, Freccia Bianca, Freccia Argento, non si possa promuovere un po' di più anche il nostro Made in Italy ancora? Io le posso anticipare mettendomi il cappellino di amministratore delegato della Illy Caffè, che sì, è vero che voi avete fatto la cappellina. Questo è vero, però poi si mangia male, ok? Perché voi non fate cibo, ma insomma mi piacerebbe vedere un po' più di promozione anche visto che voi molto ragionate sulla promozione non di un singolo settore, ma di un modo di vita italiano, che è quello che sta funzionando poi sui mercati, lo dico. Non sono discorsi astratti, si fanno i soldi con questa roba. E beh, anche se le Ferrovie dello Stato proponessero, non so, quello che è il grande giacimento di risorse alimentari di questo paese, invece di qualche sandwich spesso immangiabile, non sarebbe male. Ma questa è una polemica che non faccio con lei, la farò fra mezz'ora con Mazzoncini. Grazie Andrea Illy, in bocca al lupo per domani, dopodomani, nella sede del Sole 24 Ore per l'ottava edizione del Luxury Summit. We'll be right back. Allora adesso chiedo aiuto a Pindaro, perché passare dal temi del lusso, dell'alto di gamma, ha ragione Illa a chiamarlo alto di gamma, perché vuol dire quello che poi spesso apre la pista per il resto delle gamme italiane, i vari prodotti che citavamo, legno arredo, alimentare e chiaramente anche vitivinicola e moda. Passare dall'alto di gamma alla Grecia è dura, ecco perché chiedo aiuto a Pindaro, ma ringrazio la mitica Adriana Ceretelli, che fra poco sarà in collegamento con noi. E a questo punto però direi in regia facciamo un po' più di pulizia, andiamo subito in pausa con pubblicità e meteo, poi parliamo di Grecia, dell'accordo raggiunto che, se tutto va bene, ma non vedo altri elementi di criticità, ci permetterà di passare dal 2013 la prima estate a noi, ma soprattutto ai greci, senza che il collasso della Grecia sia un tema quotidiano anche di questo programma. 349-238-6666 per gli sms, ha ragione, e WhatsApp chi dice che non ho dato gli indici di borsa. Comunque vi do adesso la chiusura praticamente ancora provvisoria: più 1,70% Milano, più 1,1 Parigi, più 1,50 Francoforte, più 0,60 Londra, euro su dollaro a 1,11. Molto bene il Banco Popolare oggi, più 8,50%, molto bene anche la Pop Milano, quindi l'unico matrimonio ormai in dirittura d'arrivo, più 8%, Ubibanca più 7,40, Anima Holding più 5,30, Exor più 5, Pop Emilia Romagna più 5, Saipem più 4,20, Eni più 3,30, come Azimut, Telecom più 3,15, come Fiat. Di negativo c'è poco, c'è Luxottica proprio di lusso meno 0,70, come Moncler e Yux Net-a-Porter e Ferragamo, e Banca Mediolanum un meno 1,40%. Meteo. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10:30 con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da... Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo adesso proprio un'agenzia sulla Grecia, il Fondo Monetario frena un po', serve un chiaro impegno dell'Unione Europea, però ce l'ha con l'Unione Europea, come spesso capita in questi giorni, per sul taglio del debito greco. Comunque, tutti oggi plaudono all'accordo raggiunto e noi abbiamo la mitica Adriana Ceretelli in collegamento per commentarlo. Buonasera Adriana. Buonasera. Editorialista sulle 24 ore da Bruxelles. Sentiamo Dijsselbloem, perché più che Padoan, che dice successo importante e incoraggiante, ebbene il presidente dell'Eurogruppo, che insomma nel suo passato era un bel falco, ha detto l'accordo, l'Eurogruppo ha dettagliato meglio tutto il la roadmap, il percorso per arrivare all'alleggerimento del debito greco, e questo consentirà al Fondo Monetario, che chiedeva questo, di entrare nel piano di aiuti. A dire vero, l'agenzia di adesso mostra un Fondo Monetario ancora scettico che dice attenzione, noi vogliamo un chiaro impegno di Bruxelles per ridurre il debito greco. Però sentiamo Dijsselbloem. Abbiamo raggiunto un accordo, anzi le istituzioni e la Grecia hanno raggiunto un'intesa che è stata approvata dall'Eurogruppo. L'accordo è stato raggiunto anche grazie al pacchetto di riforme che la Grecia si era impegnata ad approvare e a tutto il lavoro legislativo fatto dal governo e dal Parlamento ellenici. Adesso esamineremo gli ultimi lavori parlamentari della Grecia per verificarne la conformità all'accordo. Il pacchetto di misure d'emergenza è fondamentale per fare in modo che Atene mantenga la rotta quanto a politiche di bilancio. Sulla base di queste azioni preventive, il Fondo Europeo di Stabilità potrà sostenere il nuovo piano di aiuti e approvare l'esborso della seconda tranche di questo programma. Sono anche lieto di dire che il Fondo Monetario ha espresso l'intenzione di raccomandare al suo board l'approvazione dell'accordo entro la fine dell'anno. L'FMI ha quindi intenzione di tornare a far parte di nuovo del programma. Certo, questo richiederà una serie di provvedimenti. Ne citerò soltanto due. Innanzitutto, prima che il fondo torni in consiglio, dovrà effettuare una nuova analisi di stabilità del debito greco per verificare a che punto sono i lavori. Inoltre, l'FMI valuterà le misure di alleggerimento del debito che l'Eurogruppo ha accordato ad Atene. Allora, mentre nel frattempo un recente studio della European School of Management ha stimato che solo, pensate, il 5% degli aiuti dati in questi anni alla Grecia, quindi solo 10 miliardi di euro, siano realmente finiti al Ministero del Tesoro e quindi per rilanciare l'economia greca. Tutto il resto è stato speso per rimborsare il debito, cioè 87 miliardi sono stati spesi per rimborsare il debito ai paesi debitori, ai paesi creditori, 9 miliardi al Fondo Monetario Internazionale, 52 altri miliardi sono stati pagati per gli interessi sul debito, 37 miliardi vabbè, per ricapitalizzare le banche e 30 miliardi per gli incentivi agli investitori nel settore privato. Quindi praticamente, sostanzialmente, quasi 140 miliardi, 130 miliardi sono stati spesi solo per pagare debito e interessi sul debito. Adriana, bene l'accordo, però è abbastanza umiliante farsi dire dal Fondo Monetario, come commentavamo due settimane fa con Mario Pratero, farsi dare lezioni keynesiane di solidarietà economica dal Fondo Monetario Internazionale, che dice dovete prendere un accordo serio, se no noi non entriamo, per mettere in moratoria, quindi questo vuol dire poi ridefinire il debito greco. Ma diciamo che questo non è tanto colpa dell'Europa quanto della Germania. La Germania vuole assolutamente a bordo il Fondo Monetario, ma lo vuole alle sue condizioni. E per ora la Germania, in questo accordo della notte scorsa, ha imposto le proprie condizioni sia alla Grecia che al Fondo Monetario, nel senso che il Fondo Monetario voleva un accordo che già definisse la sostenibilità del debito subito. La Germania ha detto no, le condizioni esatte, il percorso è stato delineato, ma diciamo i dettagli verranno chiariti soltanto e applicati soprattutto soltanto a partire dal 2018. Formalmente la scadenza è quella del terzo piano di salvataggio e quindi può avere una logica, ma nella realtà la vera scadenza che interessa a Schäuble e la Merkel è quella delle elezioni tedesche della fine dell'anno prossimo. Perché questo? Perché il pacchetto di ristrutturazione, qualora ci fossero dei tagli, dovrebbe passare dal Bundestag e il Bundestag non darebbe, con l'attuale situazione, il via libera. Quindi diciamo questo escamotage è fatto per dare un segnale alla Grecia e barcamenarsi sulla sostanza vera dell'accordo. È ovvio che il Fondo Monetario non concordi perfettamente, anche perché il Fondo Monetario diciamo non ha, come gli altri paesi, la preoccupazione di delle elezioni politiche. Certo. Sì, delle elezioni politiche, al tempo stesso di avere a che fare con la supremazia della Germania, che di fatto nella crisi è aumentata in modo abbastanza ampio in Europa. Potremmo ricordare i sommergibili venduti, lo scandalo dai tedeschi ai greci, lo scandalo Siemens sempre in Grecia. Potremmo ricordare che quando scoppiò la crisi greca le banche tedesche erano, dopo quelle francesi, le più esposte con i prestiti, quindi i soldi li avevano prestati ai greci finché andava bene. E possiamo ricordare che in questi anni quello che è stato fatto su indicazione della Germania è trasformare il debito greco verso i privati in debito pubblico verso i cittadini europei, nel senso con cara grazia. Potremmo anche aggiungere uno studio che è stato presentato proprio oggi a Bruxelles, nel quale si dimostra che nonostante tre pacchetti di salvataggio, nonostante 12 revisioni dei medesimi, nonostante i 220 miliardi dati alla Grecia, la Grecia continua ad avere un debito che è doppio rispetto alla media europea, continua ad avere una crescita zero contro l'1,6 dell'Eurozona, la disoccupazione è più che doppia, quindi il fallimento della ricetta applicata conclamato. L'unico interesse è quello dei creditori e allora quello naturalmente è stato soddisfatto. Basterebbe ricordare che le banche tedesche e francesi si sono riprese i soldi, perché poi il debito greco è stato scaricato sulla collettività, e già questo dovrebbe dire ai tedeschi di usare un po' più di prudenza, perché non è che i greci erano belli quando dovevi vendere sommergibili, pagare tangenti, Siemens e quant'altro, e avere le banche che si spagnano. Poi improvvisamente i greci sono diventati brutti e greci, quando, quando non ti ripagavano più. E adesso avete scaricato su tutti i cittadini europei il debito greco senza che si esca mai da questa situazione, perché quando uno è messo così male è inutile che tu gli chieda ogni anno di rientrare. Se deve pagare poi gli interessi e non mangia, non investe, l'economia greca non ripartirà più. Adriana, a questo punto però, visto che il Fondo Monetario poco fa ha detto no, noi vogliamo un percorso chiaro, secondo te, e visto che comunque, come tu ricordavi, le elezioni tedesche sono a fine dell'anno prossimo, secondo te la soluzione ponte quale potrebbe essere? Convincere il Fondo Monetario a entrare con la... Secondo me useranno l'ESMA, il Fondo Salva Stati, e quello sarà il veicolo per continuare, diciamo, a tamponare. Per ora, diciamo, i 10,3 miliardi dati per aiutare la Grecia a rispettare le scadenze del debito durano fino a ottobre, quindi sostanzialmente arriviamo alla fine dell'anno. Poi si inventerà qualche altro escamotage per scavallare anche il 2017 e poi finalmente arriveremo all'inevitabile, perché è inutile, il debito greco è insostenibile, ma non perché è aumentato in volume, ma perché aumenta in quanto, essendo un rapporto secondo i criteri di Maastricht, la crescita economica della Grecia è andata a picco, e quindi anche in costanza del volume del debito, ovviamente sfitta in percentuale. Quindi anche lì, quando si dice ah, questi greci che aumentano il debito, no, di fatto in termini assoluti non l'hanno aumentato, ma è diventata insostenibile il debito proprio perché l'economia non cresce. È un po' il problema che abbiamo anche noi, e che spieghiamo sempre. Non poteva mancare la solita polemica antitedesca, mi scrivono al 349-238-6666. Guardi, le responsabilità sono molto chiare nella gestione della crisi greca. Sicuramente, se siamo arrivati ancora a questa situazione di stallo e prendiamo anche schiaffi dal Fondo Monetario Internazionale, che viene a dire agli europei ma non vi rendete conto che quel debito lì o lo mettete in moratoria o non lo ripagheranno mai i greci, è inutile che continuate a girare attorno al problema, beh, questo non è stata volontà né della Francia né di Madrid né di Roma, ma di un unico paese che si chiama Grecia. E ricorderete che tutto iniziò quando Angela Merkel nel 2013 disse non è detto che tutti i paesi restino nell'Unione, e da lì poi abbiamo iniziato a ballare per un paese che vale il PIL sostanzialmente della Lombardia in Europa. Grazie Adriana Ceretelli, traffico e poi la borsa. Focus Economia. Allora sì, è vero, i creditori della Grecia si sono, come scrive un ascoltatore, sciroppati un taglio del 50% nel 2012, ma hanno avuto il rimborso, ok? Dopodiché non torniamo su come si sono fatti quei debiti con la Grecia, perché diventerebbe veramente sgradevole. Andiamo invece sulla borsa, più 1,66% Milano, nel giorno in cui, vedo adesso un'agenzia, la Cassa Depositi e Prestiti ha scelto Enel, pochi istanti fa l'agenzia, come per l'operazione MetroWeb. Però prima di commentare la borsa e di arrivare anche a Unicredit, vorrei farvi ascoltare che cosa ha annunciato oggi il numero uno di Edison, Alessandro Zunino, era prima ospite di Giovanni Minoli, poi della nostra Anna Marino, nel senso che hanno presentato tutto un progetto come Edison a Milano, ma soprattutto di restituire i 100 euro dell'abbonamento RAI, del canone, che si pagherà in bolletta ai nuovi clienti che sottoscriveranno un contratto entro l'autunno del 2016. Beh, come marketing non male. L'offerta è rivolta a tutti gli italiani, a tutti coloro che ritroveranno il canone TV nella bolletta elettrica, a tutti coloro che pagano il canone nella propria residenza. Noi abbiamo fatto una stima di almeno 100.000 clienti. La durata e soprattutto i termini e le condizioni per aderire? Si può aderire via web o attraverso il nostro call center. Il rimborso del canone avviene in 10 rate da 10 euro, quindi a partire dal primo mese di fornitura, per i 10 mesi successivi si ottiene i 100 euro del canone TV, e l'offerta ha un prezzo fisso per energia elettrica per 24 mesi. Questo comunque è un altro valore importante, perché poche offerte oggi, poche aziende oggi si impegnano a mantenere fermo e fisso il prezzo di energia per 2 anni. Questa offerta sopravviverà, insomma, nei prossimi anni? Per adesso sopravviverà sicuramente tutta l'estate, visto che è questo il momento in cui il canone TV è in bolletta, e quindi la sensibilità anche dei consumatori sarà molto elevata. Valuteremo in autunno com'è andata. Se avrà ottenuto il successo che ci aspettiamo, molto probabilmente la prolungheremo. Diciamo, facciamo leva su un tasto forse un po' dolente, ecco, e certamente poi è una spesa come tante altre, devo dire, che grava sulle famiglie in un momento non facile. Beh, devo dire, insomma, magari questa iniziativa verrà raccolta anche da altri gestori e fornitori di elettricità, ma insomma, quanto a marketing, obiettivamente va lodata, perché nel momento in cui dici se tu ti abboni a Edison io ti pago i 100 euro del canone che per la prima volta ti beccherai in bolletta, non male. Invece andiamo alle banche, perché intanto saluto Marco Ferrando, buonasera del Sole 24 Ore. Buonasera a voi. E anche Flavia Carletti di Radio Cuore Sole 24 Ore. Vado un po' rapido perché sono un po' stretto con i tempi. Marco, il nome di chi prenderà il posto di Ghizzoni, c'è qualche novità in più? E soprattutto a questo punto si ragiona seriamente su un aumento di capitale per Unicredit, un altro aumento di capitale pesante tra i 5 e 9 miliardi? Sì, è corretto, ma sul nome diciamo siamo ancora in una fase in cui si accettano scommesse, sono sempre i soliti che girano ormai da una settimana, cioè da quando si è capito che sono arrivato al dunque per Ghizzoni, quindi ripetiamo, Marco Morelli, ex Intesa, ex Montepaschi, ma c'è anche Ermotti, ex Unicredit, un altro ex Unicredit che sarebbe Mustier, anche se c'è chi dice che in Italia c'è già troppo potere francese. Insomma, i nomi sono questi. Sull'aumento, come dicevi, rimane uno dei temi dominanti sul mercato e sarà uno dei motivi che porteranno alla scelta di un azienda piuttosto che di un altro. Da notare, segnalo soltanto un report interessante di Kepler di oggi, secondo il quale di fatto il mercato sconta già un aumento da 5 miliardi, quindi spiegherebbe in questo modo anche il trend del titolo degli ultimi mesi. Questo sì, in sostanza è un elemento in più per dire che sarà difficile evitare un aumento. Come dicevi, la forchetta è molto ampia, si va da un minimo di 4-5 miliardi addirittura 8-10 miliardi. Si vedrà, ecco, potrebbe essere unito a un tema di cessioni, quindi evidentemente il mix sarà decisivo. E come tu ricordavi, il titolo, tra l'altro, uno degli elementi che hanno portato all'addio di Ghizzoni è stato, da un lato, l'ultimo, la garanzia sull'aumento del capitale della Popolare di Vicenza, poi se l'è presa in carico il Fondo Atlante, ma valeva un miliardo, ma soprattutto il fatto che il titolo abbia fatto dal 2010 adesso, da quando è arrivato Ghizzoni, meno 76%, mentre il titolo concorrente Intesa San Paolo ha fatto più 1%. Poi tu dicevi giustamente, probabilmente gli operatori scontano già adesso, negli ultimi periodi, un aumento di capitale. Grazie intanto a Marco Ferrando, che riavremo ospite. Flavia Carletti, a proposito di banche, il commento di borsa, poi gli altri titoli li darò io dopo GR24. Banco Popolare più 8,70, Pop Milano più 8,30, Ubi Banca più 7,20, Pop Emilia Romagna più 5%. Sì, esattamente, le banche oggi sono state le protagoniste assolute a Piazza Affari in una giornata comunque che, secondo gli operatori, al di là del fatto che il Banco Popolare e BPM hanno festeggiato il via libera definitivo alla fusione che è arrivata nella tarda serata di ieri, le banche sono state sostenute anche da alcuni dati macro arrivati dagli Stati Uniti, soprattutto ieri, che hanno alimentato ancora di più l'idea che comunque nel corso del 2016 ci sarà un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti, e questo ha avuto un riflesso positivo su tutti i titoli bancari, perché proprio il fatto che, secondo molti, i loro utili sono messi sotto stress proprio dai tassi bassi, un aumento, anche se negli Stati Uniti, comunque potrebbe rendere più positivo il quadro per le banche. Altri due titoli rapidamente, l'assemblea di Telecom da un lato, e il titolo oggi in borsa guadagna il 2,70%, e l'assemblea dei soci di Exor, quindi la controllante di Fiat, Chrysler, Ferrari e CNH, bene Exor, molto bene, più 5,32%, anche Fiat Chrysler più 3%, CNH più 2,70%, Exor e Telecom. Sì, esattamente, oggi nel giorno in cui l'attenzione era tutta sull'assemblea di Exor, in particolare sulle parole di John Elkann, che è presidente sia di Exor che di FCA, tutta la galassia poi ha beneficiato degli acquisti. I punti su cui si è concentrata un po' l'attenzione sono state le smentite su qualsiasi interesse per PSA, perché per quanto Elkann abbia detto che sono ancora alla ricerca di un possibile partner per FCA perché si aumenti in qualche modo le dimensioni del gruppo, PSA non interessa, mentre invece per quanto riguarda i contatti con la Cina li ha limitati solamente a uno sviluppo sul mercato cinese. E poi una cosa che è piaciuta molto agli analisti, secondo i commenti già usciti questa mattina, sono state le nuove nomine fatte in Alfa Romeo e Maserati, cioè alla fine è stata una sola, è stato nominato il canadese Red Bigland a sostituire Harald Wester come CEO sia del brand Maserati che di quello Alfa Romeo, e questo nome è piaciuto agli analisti che probabilmente vedono in questa scelta proprio la voglia di puntare su questi due marchi premium, e allo stesso Elkann ha detto che è proprio arrivato il momento per il vero rilancio di Alfa Romeo, un rilancio che si aspettava da tanto tempo. Invece per noi è arrivato il momento del GR24, resta con noi Flavia perché dopo commentiamo invece Telecom, anche alla luce oddio, la notizia è arrivata pochi istanti fa, che comunque è Enel che ha vinto la gara per Metroweb. Questa è la scelta della Cassa Depositi e Prestiti. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sono Marta Cagnola e vi aspetto con il Sabato del Villaggio ogni sabato alle 15. Sono Daniele Bellasio, poi alle 17 arrivo anch'io e provo a rovinarti l'ultima ora del Sabato del Villaggio con Radio Q. I liberi consigli per il fine settimana e tutto il meglio e il peggio della rete tutti i sabati alle 15 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Semplicissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con Flavia Carletti di Radio Core sulle 24 ore. Flavia, era rimasta fuori dopo Exor Telecom Italia, che chiaramente alla luce delle dichiarazioni non poteva ancora sapere che la Cassa Depositi e Prestiti avrebbe scelto poi Enel per Metroweb, ma c'erano state dichiarazioni importanti di Cattaneo che ha detto realizzeremo un rapido cambio di passo, i risultati ci saranno già nel primo trimestre, taglieremo i costi senza togliere un euro di sviluppo, è un dovere etico contenere le spese operative. Lancia poi la fibra a 1000 mega sulla rete in fibra partendo da Perugia, dove sono già stati realizzati i primi 1000 collegamenti super veloci, e poi oltre 10 milioni di investimento per la fibra fino a casa, 1 giga, poi TIM torna all'attacco, detto sempre Cattaneo, la fibra 1 giga lanciata per primi in Italia, oggi a Perugia, partirà poi anche a Milano e nelle altre città. Il titolo si è mosso bene, più 2,70%, Flavia. Sì, esattamente, appunto oggi c'era la decisione di Cassa Depositi e Prestiti proprio su Metroweb e sono arrivate delle indiscrezioni anche prima della fine della chiusura di borsa, però secondo gli operatori diciamo che il risultato a favore di Enel era quasi un po' scontato e forse anche proprio già scontato nell'andamento sia di Telecom Italia che di Enel, tanto che Telecom ha fatto più 2,72%, mentre Enel in una giornata comunque positiva per il comparto energetico ha fatto uno più 0,30, quindi diciamo quasi vicino alla parità in una giornata invece positiva sia per la borsa che per il comparto energia. E forse appunto l'attenzione è stata più rivolta alle parole di Cattaneo, in particolare Cattaneo ha detto di avere che la sua ambizione, l'ambizione del suo gruppo diciamo ai vertici di Telecom è quello di arrivare al segno più già nel prossimo trimestre e poi di averne diciamo una lunga serie anche nei prossimi, quindi certo. Diciamo un'inversione di rotta sulla gestione della società, e in più adesso un po' l'attenzione degli investitori secondo gli analisti si rivolgerà a quello che può essere l'IPO di Sparkle, che viene vista proprio come una buona opportunità anche per catalizzare attenzione sul titolo in maniera positiva. Certo. Allora, migliori e peggiori, oggi i migliori li abbiamo già letti, di negativo c'è Atlantia -1,5, Mediolanum -1,30, poi Luxottica -1, Moncler -0,80, in assoluto migliori e peggiori, industria e innovazione +13%, Stefanel +12,70, Banco Popolare l'abbiamo detto, Credito Valtellinese +7,5, fronte opposto Energy Lab -6,90, Banca Ifis -3,80, grazie a Flavia Carletti, e come annunciato adesso parliamo di ferrovie. Sì, parliamo di Ferrovie dello Stato perché da un lato il prossimo 29 maggio proprio il gruppo Ferrovie dello Stato, quindi le Ferrovie Italiane, ospiterà a giugno, fino al 2 giugno, l'edizione del 2016 del World Congress on Railways Research, che cos'è? È il più importante appuntamento mondiale sulle sfide dei binari, delle ferrovie a livello mondiale, e quindi anche dove sta andando la ricerca ferroviaria, perché c'è una ricerca, c'è anche importante sulle ferrovie. Quest'anno per la prima volta parteciperanno anche le ferrovie russe e quelle giapponesi. E allora sappiamo che per esempio il gruppo Ferrovie dello Stato, per quello che riguarda l'export anche di tecnologie e infrastrutture, ha siglato un importante accordo in Iran, e ringrazio per parlare delle sfide del mondo ferroviario e poi anche delle, invece dei casi che riguardano più specificatamente le Ferrovie dello Stato, ringrazio l'amministratore delegato dell'FS, ingegnere Renato Mazzoncini, che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera. Buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori. Allora, io so che quando parliamo di tecnologia, uno è ovvio che c'è l'alta velocità, però immagina più la parte legata per esempio all'aerospazio e difesa, si parla meno di ferrovie in questo senso. I temi che dibatterete, visto che voi siete il paese che ho, l'Italia, e voi siete il paese ospitante, l'edizione annuale del World Congress on Railway Research, leggevo insomma nuove sfide nella progettazione dell'alta velocità e addirittura l'ipotesi di una nuova generazione di veicoli guidati con l'intelligenza artificiale? Ma sì, diciamo che il World Congress è sicuramente un'occasione per mettere in fila tutto quello che si sta facendo, sia nella ricerca attuale sia le prospettive future. È uno delle sessioni più interessanti, la Vision 2050, cioè come funzioneranno i treni nel 2050, ed è altrettanto chiaro che come ci sono evoluzioni nell'aerospazio, anche sulla parte ferroviaria, credo che anche solo in Italia negli ultimi 10 anni abbiamo sentito evoluzioni incredibili. E se ci pensate, già oggi in Italia incominciano a esserci nel settore metropolitano treni guidati con l'intelligenza artificiale, cioè ci sono metropolitane automatiche come la linea 5 di Milano, il metro di Brescia o altre che viaggiano oggi senza il conducente. Di fatto è l'interazione tra l'infrastruttura e quindi chi gestisce i binari e il treno che consente oggi di arrivare a queste tecnologie. E d'altra parte, se pensiamo che Apple e Google stanno pensando a delle automobili che sulla strada viaggiano in maniera autonoma, immaginiamo quanto certo. In effetti il tema è molto più anche diciamo fattibile nell'ambito ferroviario. Quindi quella è sicuramente oggi una frontiera su cui si sta lavorando seriamente. Ecco, dopo vorrei arrivare con lei anche alla parte merci, perché non ci sfugge, ne abbiamo parlato anche con chi si occupa di porti, interporti, che proprio l'esplodere del, per esempio, del commercio online abbia lanciato nuove sfide alla logistica integrata, non solo commercio online, anche le merci classiche. E abbiamo parlato proprio 2 settimane fa del piano portuale italiano, che vuol dire sia il porto, inteso come fronte del porto, ma anche tutta la parte del retroporto in cui voi siete coinvolti direttamente, perché poi la logistica vuol dire far transitare questi container sui treni merci. Però restiamo un attimo ancora sulla parte passeggeri, perché venendo all'Italia io vorrei capire 2 cose. La prima, voi avete chiuso il 2015 con un utile di quasi 500 milioni di euro, 467 milioni, questo perché io ricordo quando iniziai questo lavoro si diceva che ferrovie e poste erano i due soggetti dove non era neanche immaginabile pensare a un utile. Invece le poste sono anche andate in borsa, voi avete fatto un utile e anche voi, anche su di voi il governo sta lavorando per un collocamento del 40% della società sul mercato. Investimenti cresciuti del 30% a 5,5 miliardi, ricavi in aumento a 8,6 miliardi di euro. Perché siete interessati a comprare le ferrovie del sud-est, quelle di cui ci siamo purtroppo occupati per gli scandali nella gestione, nelle inchieste della magistratura, nelle gestioni precedenti, prima che poi arrivasse l'intervento del ministro Delrio? Le ferrovie del sud-est sono quelle, diciamo, pugliesi, per farsi capire, e anche per il collegamento con Roma. Prego. Ma ci sono, direi, 2 aspetti che riguardano le ferrovie del sud-est, ma che riguardano in generale tutte le ferrovie concesse d'Italia. Un aspetto è l'aspetto della rete. Le ferrovie del sud-est sono una rete ferroviaria di 471 chilometri, direi sicuramente la più estesa, oltre a quella di RFI, la cosiddetta rete convenzionale nazionale. E più o meno in tutte le regioni esistono queste piccole reti che in realtà, se venissero connesse con la rete ferroviaria principale, potrebbero realizzare delle sinergie molto importanti, perché sono reti interconnesse con le reti di RFI, ma sono assoggettate ancora per il momento a sistemi di segnalamento diversi, e quindi i treni Italia di fatto non possono circolare su queste reti, con una diseconomia direi assolutamente evidente. Quindi la prospettiva per quanto riguarda la rete e il mio punto di vista è che noi dovremmo arrivare esattamente come con la rete elettrica con Terna. Sapete che alla fine dell'anno scorso abbiamo ceduto quasi 9.000 km di rete elettrica a Terna proprio per far convergere nel gestore unico la rete elettrica nazionale. Alla stessa maniera, a mio avviso, i binari, quindi la rete ferroviaria nazionale, dovrebbe essere inserita all'interno di un unico soggetto che ovviamente oggi è RFI, che gestisce già 24.000 km di binari. Quindi questo non vale solo per le ferrovie del sud-est, abbiamo aperto interlocuzioni anche con la regione Lazio, con la regione Umbra, con tutte le regioni che oggi capiscono che una gestione unitaria della rete ferroviaria nazionale è importante. Per quanto riguarda poi il tema del servizio, il problema è riuscire a dare dei servizi sempre più integrati, sia tra i vari vettori ferroviari, sia tra il trasporto con il trasporto gomma. Le ferrovie del sud-est oggi, come probabilmente saprete, vi eravate interessati, tra l'altro hanno 2/3 del servizio su gomma e 1/3 sul servizio ferroviario. Indubbiamente negli ultimi anni i risultati economici di cui parlava dimostrano che Ferrovie dello Stato ha avuto la capacità di fare un turnaround importante di tipo industriale e riuscire a gestire business che tradizionalmente erano considerati appunto in perdita, con invece condizioni di efficienza, con capacità di autofinanziare gli investimenti e quindi di crescita del servizio. E quindi questa esperienza mettiamo a disposizione anche delle ferrovie secondarie che oggi volessero rientrare all'interno del nostro perimetro. Allora, guardi, adesso abbiamo il traffico, ingegnere, poi vorrei riprendere l'intervista parlando del trasporto anche locale, perché insomma anche via SMS vedo parecchie critiche / lamentele. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. 18 e 21 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vi ricordo che il nostro ospite è l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, l'ingegnere Renato Mazzoncini. Dunque, ingegnere, trasporto locale, cerco di sintetizzare anche, insomma, edulcorandoli alcuni messaggi. La sensazione è questa, che sull'alta velocità, poi torneremo a parlarne, voi state investendo e quant'altro, l'Italia abbia raggiunto anche altri paesi. Sul trasporto locale, cioè, che siano due mondi diversi, un mondo di serie A e un mondo di serie B. Ma allora devo dire che in realtà sui trasporti regionali stiamo facendo forse la più grande rivoluzione silenziosa di questi ultimi anni. Tenete conto che nel 2013-2014 è partito di fatto il progetto per il rinnovamento dei servizi ferroviari regionali. Tra il 2014 e il 2016 sono stati investiti 1.800.000.000 in treni nuovi, che ha consentito di sostituire circa il 25% della flotta di 1.200 treni regionali nazionali, e soprattutto è stata bandita, e in realtà siamo in aggiudicazione proprio in questi giorni, la più grande gara mai fatta nella storia per treni regionali, una gara con base d'asta di 4,5 miliardi di euro, che consente nei nostri piani di sostituire il 50% dell'intera flotta dei treni regionali nazionali. Vuol dire che al termine di questa operazione, che con tempi di consegna dei treni a 24 mesi, vuol dire che dal 2019 inizieranno le consegne dei 2000 treni, anzi direi già nel 2018 speriamo di riuscire a vedere i primi treni che arrivano. Vuol dire che entro il 2020 noi ci troveremo sostanzialmente col 75%-80% della flotta, dell'intera flotta dei treni regionali italiani rinnovata negli ultimi 5 anni. Il che vuol dire che passiamo da una situazione in cui non siamo fanalino di coda, ma certamente non siamo ai top del benchmark europeo, in una situazione in cui invece avremo la flotta più giovane d'Europa di treni regionali. Questo ovviamente da solo non basta, perché poi c'è un problema di infrastruttura, c'è un problema di stazioni, ma il problema dei treni però è il problema principale, perché per quanto si possa migliorare il servizio, poi in materia rotabile, come ha dimostrato anche l'alta velocità, è comunque quello che fa la differenza. E quindi il lavoro è importantissimo, e gli investimenti che tra il 2005 e il 2010 in particolare sono stati fortemente concentrati sull'alta velocità, oggi si stanno molto spostando sul trasporto regionale, sia lato infrastrutture col MIT, gli ultimi accordi di programma che hanno stanziato circa 17 miliardi di euro tra 2015 e 2017 sulle infrastrutture, per oltre la metà oggi sono sul trasporto regionale, quindi vuol dire miglioramenti tecnologici, quadruplicamenti, raddoppi ferroviari, tutto quello che serve per fare in modo che il trasporto regionale recuperi il suo gap. Quindi tradotto, il gap oggi esiste ancora, inutile negarlo, però il maggior sforzo che sta facendo il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane oggi è proprio su quel gap. Un'ultima domanda, il trasporto merci, perché ne abbiamo parlato anche nelle settimane e nei mesi scorsi, quello che lamentano non solo le autorità portuali, ma anche le autorità portuali e gli stessi spedizionieri e poi gli industriali, è che insomma, al di là del caso storico di Gioia Tauro, in cui per via del collegamento ferroviario tu perdi la settimana di vantaggio che hai nel trasporto cargo via nave ad arrivare a sbarcare a Gioia Tauro piuttosto che Anversa, risparmi una settimana, ma poi quel tempo lo perdi per la lentezza, per la carenza infrastrutturale di carattere ferroviario. Ma questo, ci è stato fatto presente, non riguarda solo il caso clamoroso Gioia Tauro, ma riguarda anche altre attività, tant'è che continuano ad esserci merci che sbarcano ad Anversa, scendono diciamo verso il nord Italia piuttosto che sbarcare a Genova. Cos'è che manca per avere quella che si chiama realmente una logistica integrata e quindi nave, sdoganamento in mare, che si sta avvenendo con successo, devo dire, laddove l'hanno sperimentato Civitavecchia, ma non solo, autorità portuale, retroporto operativo in cui si riesca poi a imbarcare rapidamente queste merci e anche delle tabelle di marcia che le rendano competitive? Beh, il piano industriale che stiamo preparando, di cui parlava anche Del Rio, che presenteremo alla fine dell'estate, tra uno dei focus fondamentali è quello sul trasporto merci e della logistica integrata. Abbiamo definito una nuova subholding delle merci all'interno del gruppo Ferrovie, che si chiama Merci Italia, che integrerà tutta la filiera del trasporto, che vuol dire la parte rail, la parte trazione, la parte logistica e la parte dei terminali. Di fatto direi che per dare una risposta a quello che manca è che oggi in Europa abbiamo 400 miliardi di fatturato di trasporto merci terrestre, di cui 52 miliardi in Italia e solo un miliardo, poco più, fatto da noi sul ferro, che siamo il principale operatore di trasporto ferro. Quindi il vero problema oggi è che bisogna investire e potenziare sulla modalità ferroviaria, quindi sui terminali e sul materiale rotabile, perché tutto sommato direi che la rete ce l'abbiamo, quindi il problema principale non è quello. Tanto per darvi un'idea, adesso con l'attivazione del Gottardo, che consentirà di, e poi in futuro del Brennero, che consentirà di mettere in piedi il principale quadrilatero delle merci in Europa, e quindi il Gottardo, la pianura padana, il Brennero con i collegamenti ai porti di Genova e di Trieste, noi ci troviamo in condizione di riuscire a cogliere queste grandi opportunità solo se avremo dei terminali che oggi non abbiamo, dove costruire treni lunghi 750 metri. E quindi, per esempio, stiamo lavorando per finanziare la realizzazione degli interporti e dei terminali di Brescia, Piacenza, Milano Smistamento e Verona, per poter fare appunto il trasporto combinato e quindi mettere in piedi poi domani anche le autostrade viaggianti con treni che siano davvero performanti dal punto di vista economico. Ecco, se non abbiamo queste performance, devo dire che purtroppo i fideraggi in nave continueranno a essere anche competitivi rispetto al trasporto treno, quindi in questo momento il problema del collegamento col sud, secondo me, non è tanto il problema del collegamento con Gioia Tauro, ma il problema di riuscire a creare treni lunghi che riescono a attraversare tutta la penisola e a venire su velocemente, quindi su questo c'è un problema indubbiamente. Scusi, per far capire a tutti e concludere, ma il treno lungo non lo riusciamo a fare perché manca lo spazio per comporlo? Esattamente, okay. Manca lo spazio per comporlo e mancano in alcune stazioni le banchine dove fare gli incroci, dove riuscire, stiamo parlando di un treno lungo 750 metri, sì, no, quindi voglio dire, insomma, penso che la gente se lo possa immaginare. E però voglio dire, abbiamo già deliberato, approvato una serie di investimenti che hanno l'obiettivo proprio di essere competitivi. In sostanza il trasporto merci è davvero competitivo solo nel momento in cui fa treni veramente lunghi, e per fare treni veramente lunghi bisogna avere un'infrastruttura che consenta di farlo, bisogna avere poi le locomotive nuove e avere i terminali dove costruirli. Questo è il lavoro che stiamo facendo ed è uno degli elementi, devo dire, anche importanti del nuovo piano industriale. Allora, nel ringraziarla, vedo anche messaggi su Italo. Italo, non voglio un suo commento perché non sarebbe elegante, lo dico io. La concorrenza fa solo bene, lo dimostra anche la concorrenza nell'alta velocità, nelle tratte tra Italo e Ferrovie dello Stato. Ne sono convinto, non avremo la controprova. È d'accordo che la concorrenza. Assolutamente d'accordo. E una nota, una chiosa mia, visto che sono forte utilizzatore dei vostri treni, almeno su quelli ad alta velocità. Se si riuscisse a promuovere un po' di più il Made in Italy anche di carattere enogastronomico invece che concetti, ma lo dico non perché ma dico semplicemente perché quell'operazione che fa l'Italia con Made in Italy secondo me potrebbe essere veicolato il Made in Italy anche enogastronomico anche sui nostri treni, non diciamo ridursi a tramezzini senza nazionalità e senza sapore, ma questo non voleva essere la critica, ci mancherebbe. Mi rendo conto che abbia altri. Vogliamo tutti i suggerimenti dei clienti. No, glielo dico perché sulle tratte Firenze, Roma, Venezia, insomma, gli stranieri in alcune stagioni sono prevalenti e certo. Promuoviamo un po' anche il nostro ministro. Mi dica, Manzoncini. No, dicevo il 28 di aprile è stato deliberato dal Parlamento europeo la liberalizzazione unica dello spazio ferroviario in Europa dal 2020. Vuol dire che dal 2020 su tutte le nazioni europee sarà possibile fare la concorrenza diretta sui servizi a mercato alta velocità. Noi a livello di comunità europea abbiamo promosso abbiamo fatto proprio campagna su questo tema e penso che sia fondamentale per la qualità dei servizi. Noi ovviamente avendo già la concorrenza in Italia, siamo l'unico paese al mondo ad avere la concorrenza sull'alta velocità, ci sono 7 paesi al mondo con l'alta velocità e uno solo dove c'è la concorrenza, ci sentiamo più preparati di altri, quindi l'allenamento fatto con Italo. Gli amici di Italo ci servirà in giro per l'Europa. Adesso amici di Italo. Bene, bene, grazie all'ingegnere Manzoncini, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Arrivederci, saluti a tutti. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo in diretta domani dalle 17 in poi. Intanto l'augurio di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.